Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio a quanti ci ascoltano con quest'aria da Gianni Schicchi, di Giacomo Puccini, Maria Callas che canta O mio bambino caro. Iniziamo il colloquio di oggi con Manfredi Catella. Ecco, prima di presentarvi Manfredi Catella, chiediamo a lui perché Gianni Schicchi, perché O mio bambino caro o magari perché Maria Callas. Intanto buongiorno a tutti. È una musica che abbiamo scelto quando iniziamo uno dei grandi progetti di cui ci occupiamo tuttora, che è Porta Nuova, e quindi in questi anni ci ha un po' accompagnato in un'avventura molto importante anche a livello umano. Perché è un progetto che corrisponde a una musica? Ma sicuramente, tutto quello che facciamo ha un rumore, una musica, no? E questo sicuramente è quello che auspicavamo potesse essere quello che sarebbe diventato poi quello del progetto di Porta Nuova in particolare. Ma come mai è stata scelta? In fondo Maria Callas è... sicuramente questo brano, sicuramente più anziano di lei. Ci ispirò sicuramente proprio guardare questa zona di Milano che in qualche modo poteva risorgere, quindi ci identificammo in quest'area così importante. Un po' trascinante in un certo senso. Allora, ha già anticipato in qualche modo di cosa si occupa. Manfredi Catella è amministratore delegato di Heinz Italia, una società che fa parte del gruppo americano Heinz, è una società che si occupa di progetti, di immobili, di costruirli, di gestirli, di realizzarli. Sta realizzando un grande progetto a Milano che è? Che è Porta Nuova. Porta Nuova, il progetto di Porta Garibaldi e dintorni. È la riqualificazione, diciamo, di un'area storica di Milano nevralgica, perché è proprio nel cuore di Milano e va da Piazza della Repubblica alla stazione Garibaldi, area che... L'ex Varesine, l'area che a partire proprio dall'inizio del secolo scorso fu oggetto di grande discussione, dibattito di architettura, di urbanistica e poi proseguì nei decenni, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui questo sogno, questo grande progetto che è sociale, culturale innanzitutto, sta prendendo forma. Ecco, un progetto che vale quanto? È un investimento importante perché complessivamente è un investimento di circa 2 miliardi di euro, un investimento in cui oggi lavorano 2.000 operai in cantiere con un indotto che ha 10.000 impiegati, quindi insomma è sicuramente una delle grandi opere del paese. Ecco, lei diceva già prima non solo immobili, ma è un progetto sociale. In che senso? Ma io credo che quello, noi veniamo da una cultura, quella italiana, che ha saputo insegnare al mondo l'urbanistica, le infrastrutture, l'architettura. Poi ce la siamo un po' dimenticata negli ultimi decenni e quindi credo che invece proprio nell'operare sul territorio c'è per definizione genetica proprio del mestiere di occuparsi del territorio, perché ti occupi di bene pubblico di fatto, no? E qui ti incroci con tutto, ti incroci con la gente, ti incroci con la storia, ti incroci con l'estetica, con la tecnologia, con l'ingegneria, quindi insomma è proprio uno di quei mestieri che naturalmente si sposa con la responsabilità sociale e con la cultura in generale di un popolo, no? di una civiltà. Ecco, lei dice naturalmente, però se guardiamo un po' al passato, diciamo che come si sono costruite le città nel passato anche recente, soprattutto le grandi città, pensiamo a Milano o a Roma, questa logica forse non c'era, si sono creati dei quartieri abbastanza impersonali, abbastanza anche un po' difficili da vivere. E questo è assolutamente vero. Ciò non di meno, come nella storia, in qualunque argomento possiamo trattare, ci sono stati periodi in cui c'è stata eccellenza e periodi in cui invece quell'eccellenza la si è dimenticata. Sicuramente il settore, diciamo, della gestione del territorio, dell'urbanizzazione, dell'architettura, anche come tutti gli altri settori, i suoi alti e bassi. Quindi la storia diciamo, recente del nostro paese, certamente non è quella che nessuno di noi indicherebbe come emblematica di quella che poi invece è quello di cui ci siamo distinti come italiani nel mondo per la maggior parte della nostra storia, per cui tuttora il mondo ci guarda con interesse e ci viene a visitare. In fondo è un concetto di città molto integrata, in cui c'è tutto, in cui c'è una concezione dello spazio, in cui tutto viene sfruttato a misura della persona, non solo per l'abitare, ma anche per la vita sociale, per la vita comune, anche per risolvere alcune problematiche, per esempio delle persone handicappate. C'è un'attenzione verso questa problematica. Assolutamente sì, io credo che soprattutto chi ha l'onore e la responsabilità di occuparsi di aree che occupano diversi quartieri, quindi non un singolo edificio, è inevitabile dover pensare a tutti gli utenti, no? E gli utenti naturalmente siamo tutti noi, no? Con tutte anche le limitazioni che possiamo avere. Quindi certamente in questo progetto abbiamo raccolto il pensiero di tanti professionisti, di una squadra molto importante che ha pensato a tutte quelle che possono essere le esigenze e speriamo, insomma, di avere risposto almeno a una parte. Ecco, torneremo poi a parlare anche di questi progetti, però volevo proprio mettere a fuoco anche la sua identità, il suo carattere. Come si diventa e come è diventato amministratore delegato di una società così importante, di una realtà appunto italiana, però di una multinazionale che è una delle maggiori del settore? È una storia naturalmente lunga, no? Però vengo da una famiglia che opera sul territorio da sempre, no? Mio padre iniziò all'inizio degli anni 70 e lui era un uomo romantico e straordinariamente attento proprio a questa concezione del territorio. E questa fu in qualche modo la mia passione, no, naturale. Allora, da laureato in economia, in realtà poi la tesi fu in economia urbanistica, dopodiché andai in giro per il mondo a imparare un po' a Parigi, un po' in America, ebbi la fortuna di poter lavorare altrove. E quindi trovo, diciamo, il grande fascino del mestiere che svolgo oggi è proprio quello di occuparsi di un bene comune, quindi di un territorio o di beni dove si celebra la grande architettura, si celebra, ripeto, la tecnologia da un punto di vista di aggiornamento proprio della macchina di un edificio che uno realizza. Quindi, insomma, è un mestiere molto creativo, un mestiere che si è fatto con quell'attenzione, con quell'intelligenza necessaria, può essere estremamente travolgente. Ecco, che particolarità ha Ains Italia rispetto alle altre società del gruppo sparse un po' in tutto il mondo? Ma devo dirle che in questi anni la nostra attività italiana si è ampliata molto e, come al solito, a volte gli italiani, pur vivendo in uno stivale lontano, quasi oramai per certi versi periferico rispetto ai grandi eventi del mondo, poi abbiamo la nostra creatività e alla fine riusciamo a distinguerci in qualche modo. Quindi, per quanto ci riguarda, anche Ains a livello di gruppo proprio internazionale si è distinta e oggi è la società che svolge alcuni dei più grandi progetti nel mondo di Ains, ed è diventata anche un gestore di fondi immobiliari rilevante. In pochi anni siamo arrivati a essere uno dei principali operatori in Italia, forse avendo da una parte un gruppo internazionale, dall'altra però delle radici molto profonde in Italia. Quindi mi sento di dire che Ains Italia è più oramai un operatore italiano che internazionale. E come ci giudicano? Da Houston mi sembra che sia la sede principale. La sede è a Houston. Houston, abbiamo un problema, non vi capita a volte di dirlo? Ah, regolarmente, ma questo fa parte della vita di tutti noi. Ma devo dire che, limitandomi a guardare poi i fatti, cioè in questo momento noi stiamo investendo in Italia capitali ingenti di grandi fondi pensione, di grandi fondazioni, di grandi assicurazioni, e quindi in un qualche modo ci stiamo rendendo promotori dell'immagine del nostro paese e sino ad oggi ci stanno seguendo. Quindi evidentemente, al di là di tutte le chiacchiere che si possono fare su questo nostro povero o fortunato paese, alla fine ci sono eventi che accadono. Ma le capita qualche volta di dire cercate di capirci, siamo in Italia qui? Devo dire che io sono forse un po' nazionalista, sono un italiano, per quanto livornese, alla fine che ama il proprio paese, non solo la propria città, e quindi cerco sempre di difenderlo, il che non vuol dire non dire le cose che non vanno, ma cercare di guardare anche come far bene, insomma. Incontri. Buongiorno ancora, buona domenica e buon pomeriggio a quanti ci ascoltano. Riprendiamo il nostro colloquio con Manfredi Catella, amministratore delegato di Heinz Italia, società immobiliare, fondo immobiliare che opera a Milano ed è una branch della Heinz del mondo, che ha sede a Houston. Parlavamo appunto alla conclusione del nostro primo, della prima parte di questo programma, di come ci vedono da Houston. Diceva, noi siamo comunque, ci difendiamo bene come italiani, sappiamo difenderci bene e Heinz Italia è in crescita. Ecco, quali sono i fattori che stanno spingendo un po' questa crescita di Heinz Italia? Ma io credo che il tema della reputazione, della trasparenza, di aver in qualche modo in questi anni dimostrato di rispettare gli impegni anche con i nostri investitori italiani o internazionali, ci consente oggi di essere in una posizione serena, ecco, di aver, credo, fatto, se non bene, di averci messo tutto l'impegno necessario. Quindi questo ha sicuramente favorito un clima di fiducia e un clima di serenità nel lavorare poi anche nei progetti futuri. Questa, ecco, è stata la cosa più importante, direi. Il settore edilizio, il settore immobiliare lavora un po' su tempi lunghi, quindi forse la crisi del 2009 non si è sentita subito nel 2009, c'è il rischio che si senta nei prossimi anni. Ma questo è proprio forse uno dei temi che ci consente oggi anche, insomma, di affrontare le prossime sfide con maggiore decisione e anche sostegno da parte dei nostri investitori, proprio perché anche in questi anni estremamente difficili tuttora, perché comunque la congiuntura economica che abbiamo attraversato, che il mondo, non solo l'Italia certamente, ha attraversato, ci ha visto resistere, quindi ci ha visto aver fatto delle previsioni corrette, ci ha visto svolgere una gestione dei rischi aziendali, progettuali, attenta, e quindi in qualche modo questo sicuramente è stato un elemento, un fattore decisivo anche poi nel prepararci per i prossimi progetti. Ecco, parlavamo di questo progetto Porta Nuova, che penso che tutti i milanesi conoscono, anche per i non milanesi, possiamo spiegare che una delle zone nevralgiche vicine al centro della città è uno dei complessi più grandi che si stanno costruendo adesso. Quando sarà completamente finito, spariranno completamente le impalcature, le gru, eccetera, e le gru, e si dirà questa è la nuova, questo nuovo pezzo di città completamente fruibile per siamo, i cittadini. Siamo vicini, perché il progetto sarà completato per fasi, ma direi tra fine 2012 e 2013 il progetto sarà sostanzialmente completato. Quindi integrato anche con gli altri progetti vicini, quello della nuova sede della Regione Lombardia e anche con questo Expo 2015 che aspetta Milano. Come lo vede? Direi molto bene, nel senso che la vittoria dell'Expo è stato indubbiamente uno sforzo importante e un risultato importante. Credo che così il dibattito ampio, profondo che si sia svolto anche in questi mesi, o anche direi a questo punto anno e mezzo, due, no? Quindi sicuramente lo vedo da una parte positivo nella dialettica, ma dall'altro non dobbiamo perdere di vista il fatto che un grande evento per una città possa essere un volano importante da un punto di vista di comunicazione a livello internazionale, e dall'altra un'occasione per, grazie a dei fondi di natura straordinaria, svolgere alcune infrastrutture che possono favorire poi il trasporto, possono accelerare quei processi che normalmente una città ci mette molto più tempo proprio per un fatto di risorse finanziarie. Certo. Ecco, in questa prospettiva l'Expo ha un po' un duplice aspetto: da una parte deve sottolineare l'efficienza, dare un territorio efficiente capace di ospitare manifestazioni di questo tipo, e dall'altra dare anche un esempio di responsabilità. Lo stesso tema dell'Expo, il fabbisogno alimentare, la crescita appunto della popolazione, la possibilità di soddisfare i bisogni alimentari in maniera sempre più larga, è anche un segno di responsabilità sociale in fondo che Milano ha di fronte al mondo. Ecco, in questo senso vorrei tornare appunto anche molto più concretamente sulla responsabilità sociale. Lei mi sembra sia responsabile di una fondazione che ha messo in piedi. Costituimmo, sì, certo, una fondazione qualche anno fa. Non mi sento di dire di essere responsabile, pur essendone il presidente, perché c'è poi un gruppo di persone che ci lavora straordinariamente, tra cui peraltro anche mia madre e mia moglie, no? E varie persone molto brave, insomma, che si stanno dedicando poi alla fine la parte sociale molto spesso riguarda una parte del nostro tempo libero, no? Quindi già questo per me è un tema di grande generosità che dobbiamo in qualche modo recuperare nel senso del bene collettivo, no? Che se tutti noi dedicassimo una parte del nostro tempo certo. libero a questo, forse già molte cose andrebbero meglio. Quindi noi facciamo la nostra piccola, così, il nostro piccolo contributo a quello che può essere un tema, diciamo, più di natura pubblica. La Fondazione si occupa di un tema specifico, che è quello di intervenire sugli spazi pubblici delle città, della città di Milano in particolare, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Ecco, si parla di Parco dei diritti dei bambini. Questo fu uno dei progetti che in realtà va avanti, abbastanza divertente, perché decidemmo di invitare questi 7 designer, tutti milanesi, proprio per dimostrare anche che in realtà a Milano abbiamo tutto, no? C'è una concentrazione. Se esistesse un indicatore di talento delle città, forse Milano sarebbe al top nel mondo, in tutte le classifiche, no? Però insomma, invitammo questi 7 designer e scegliemmo 7 diritti dei bambini nella carta dell'UNICEF, che sono i diritti a dormire, il diritto all'ozio e così via. Questi 7 designer furono incaricati di progettare e realizzare alcuni giochi per bambini all'aperto, quindi da sostanzialmente realizzare e installare in parchi giochi esterni, che furono molto creativi, no? nella composizione. Facciamo un accordo con quest'altra associazione che si occupa di bambini che hanno handicap, che quindi hanno limitazione, e i designer furono vincolati a progettare pensando anche appunto a non solo a bambini che non hanno limiti, ma anche quelli che magari sfortunatamente ne hanno alcune. E quindi diventò un'iniziativa molto bella, perché vennero realizzati questa attrezzatura, fu inaugurata, e adesso ci proponiamo di in realtà replicarla ed espanderla. Quindi in questa prospettiva è un impegno che viene portato anche nelle realizzazioni concrete, che può diventare un impegno anche nel fare progetti appunto come quello che voi state realizzando. Io ne sono pienamente convinto, no? Sono convinto che ci sia in tutte le materie un virtuosismo, che può essere negativo o positivo, no? Oggi sono convinto che Milano sia proprio oramai già avviato definitivamente come laboratorio e come luogo di trasformazione di un virtuosismo positivo. Sta già pensando a un progetto da fare dopo? Sicuramente. Resta un segreto. Sicuramente c'è tanto da fare in Italia adesso, al di là di quello che vogliamo fare noi o ci piacerebbe fare nei prossimi anni, però sicuramente l'Italia ha proprio nel territorio una risorsa straordinaria, no? Che in questi decenni, come dicevamo prima, è stata un pochino bistrattata, poco utilizzata. Invece penso che proprio che per il futuro, per la competitività del paese, nel territorio, sia esso tema di turismo, di infrastrutture, di aggiornamento delle nostre città storiche o delle nostre città in generale, ci sia una delle grandi priorità di governo del paese. Ecco, se non fosse Milano, dove vorrebbe porre la sua attenzione? Ma dove possiamo dare un piccolo contributo, dove riusciamo a portare magari delle esperienze, degli esempi che possono essere utili. La concentrazione oggi nostra in realtà non è poi solo su Milano, perché già operiamo anche a Roma, quindi insomma sulle due grandi città italiane ci siamo e intendiamo rimanerci e continuare a svolgere la nostra attività. Ecco, lei è appunto anche un gestore di fondi immobiliari. Tornando un attimo al tema così, diciamo, strettamente finanziario, come vede le prospettive per il risparmiatore, per chi ci ascolta e magari ha qualche soldo da mettere, non per dare dei consigli, ma per dare un po' un'idea di un operatore del settore, di come vede questa realtà? Ma allora, come al solito, quando si dice dove investire, no? Io non sono mai per essere generico, no? Nel senso che poi alla fine, quando uno compra uno strumento finanziario, sì. Beh, deve andare a vedere di cosa si sta parlando. È come dire, ma se ti sposi, sposati le donne, no? No, dovrai sceglierti tua moglie o tuo marito, e quella sarà quello che fa il caso tuo. Quindi di nuovo, nel caso anche di strumenti finanziari, devi andarti a vedere chi è l'interlocutore, dove viene investito, che esperienza ha, eccetera, eccetera. Quindi non si può generalizzare. Ciò detto, credo che in generale l'immobiliare mantenga assolutamente quelle caratteristiche di protezione, per esempio, dell'inflazione, che in prospettiva inevitabilmente non possiamo immaginare che rimanga così come è stata in questi ultimi anni, cioè molto bassa. E quindi credo che ci possono essere anche delle prospettive interessanti anche poi per il per i valori che in questi ultimi anni sono scesi molto. Quindi, ecco, non c'è una bolla immobiliare vera e propria, i valori sono scesi ma con gradualità e senza effetti dirompenti. Ma io credo che il vero tema della bolla immobiliare sia un tema molto più ampio, nel senso che il vero tema è l'Italia saprà creare una crescita demografica oppure no. E quindi vai a toccare in realtà un altro tema. Noi oggi, diciamo, gli italiani stanno invecchiando, non credo che si metteranno a riprodursi rapidamente, intensamente, e stiamo avendo un'immigrazione che è un'immigrazione molto, molto definita, molto identificata. Cioè, certo, l'Italia non è riuscita ancora a trovare un modello attrattivo tale da favorire una crescita della popolazione per un'immigrazione diffusa. Ecco, ci avviamo alla conclusione, stiamo concludendo. Un'ultima osservazione: come vede l'Italia nei prossimi anni? Comunque un paese sicuramente che con un problema demografico, che è un problema strutturale, non crescerà più come popolazione, riuscirà a crescere almeno come qualità della vita. Io la vedo bene perché è un momento storico di profonda transizione e quindi c'è bisogno dell'impegno di tutti noi. E si può comunque migliorare. E sicuramente lo si può. E con questa nota di ottimismo concludiamo il nostro incontro di oggi. Ringraziamo Manfredi Catella, amministratore delegato di Heinz Italia, società del gruppo americano Heinz, di essere stato con noi. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.